larga. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbier. Piccolità, piccolità. Ah, bravo pigro, bravo, bravissimo, brava. La la la la la la la la la la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pronto a far tutto, uomo del giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasero i pettini, lanci i forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanci i forbici, rasero i pettini, al mio comando tutto qui sta. Bella risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la la la la la la la, col cavaliere, la la la. Che bel piacere per un barbiere. Piccolità, piccolità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, questo il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, questo il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Oh, in me, in me, che furia, in me, che folla, un mondo volto, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, vado prontissimo, stanco per voi, me ne sono accorto, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, la la la la la la la la la la la la la la la la, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, sono il peccato della città, sono il peccato della città, della città, della città.